Alto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nonostante il fallimento del referendum, il Nobel per la pace va al presidente colombiano, premiate gli sforzi per l'accordo con le FARC. Il caso Scontrini e le consulenze alla ONLUS, è stato assolto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e l'ex presidente del Piemonte Cota è stato assolto a sua volta per la vicenda dei fondi dei gruppi. Si abbatterà sulla Florida nel pomeriggio l'uragano Matthew, ma ha perso forza, sono oltre 300 le vittime ad Haiti. Litigio in piazza, ucciso con un colpo di pistola un ragazzo di 17 anni nel Foggiano, un altro ragazzo ferito. Cortei di studenti in tutta Italia, tensione con le forze dell'ordine a Firenze e Roma, schiaffi tra anarchici e altri manifestanti a Milano. Calcio, dopo il gesto di rabbia nei confronti del CT per la sostituzione, Pellè escluso dalla nazionale per la partita contro la Macedonia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati all'Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque parliamo del premio Nobel per la pace che va al presidente colombiano. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì, il presidente colombiano Juan Manuel Santos l'ha spuntata infine sui greci che salvano i migranti, sull'attivista russa che attiva per i rifugiati, sul medico che salva le donne stuprate nella Repubblica del Congo. Quindi grazie all'accordo di pace raggiunto con le FARC, il presidente colombiano Santos, che era super favorito 2 settimane fa, ha vinto questo Nobel, nonostante che le sue quotazioni fossero precipitate a causa del referendum che ricordavi, Simone, che la settimana scorsa ha bocciato l'intesa raggiunta con i guerriglieri per fermare un conflitto decennale, il più sanguinoso sicuramente dell'America Latina, si contano circa 250.000 morti. Rispettiamo il voto delle persone, ha spiegato la presidente del comitato per il Nobel, ma i colombiani hanno bocciato quello specifico accordo, ha detto, non il processo di pace che quindi deve continuare di questo passo. È stato davvero un grande successo, ha commentato ai nostri microfoni poco fa Antonella Mori, che è docente presso il Dipartimento di Analisi delle Politiche della Università Bocconi di Milano, ricercatrice dell'ISPI e grande esperta di America Latina. Sentiamola. Primo, problemi di questa natura ci sono e non li voglio nascondere. No, c'è un errore evidentemente nel file, vediamo se riusciamo a recuperarlo, ma evidentemente l'errore è stato mio nel momento in cui l'ho indicato alla regia. Simone, te lo ripropongo corretto tra pochissimo. Ok, grazie. Allora Bettini, vedremo se saremo in grado di riproporlo. Appunto, veniamo all'altra notizia di giornata che è degli ultimi minuti, almeno quella più importante, sicuramente l'assoluzione del sindaco di Roma Ignazio Marino. Teresa Trillò, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. L'ex sindaco di Roma Ignazio Marino è stato assolto dall'accusa di peculato, truffa e falso nell'ambito del processo sul caso Scontrini e le consulenze della ONLUS Immagine. La procura aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi. Nei giorni scorsi, intanto, sotto l'abitazione di un collaboratore del vice sindaco pentastellato Daniele Frongia, è stato ritrovato un falso ordigno. A dare la notizia sono stati Beppe Grillo e la sindaca Virginia Raggi con un post sul blog del leader dei 5 Stelle. Un ordigno non ci fermerà, scrivono, un collaboratore della giunta 5 Stelle di Roma è stato oggetto di una minaccia inaccettabile in un paese civile. Per le forze dell'ordine si tratta di un atto intimidatorio. La procura intanto ha aperto un'inchiesta e il destinatario del finto ordigno è da lungo tempo un attivista dei 5 Stelle, non si occupa di un settore particolare. Fra le ipotesi investigative dunque ci sarebbe anche quella di un avvertimento indiretto al vice sindaco Frongia, che è sempre coinvolto nelle scelte più delicate della giunta. E da Roma è tutto, Simone. Grazie Teresa Trillò per questo aggiornamento. È stato assolto anche il presidente della regione Piemonte Cota per la vicenda dei fondi dei gruppi. Sentiamo. Si è concluso con l'assoluzione dell'ex presidente della regione Piemonte Roberto Cota insieme ad altri 14 ex consiglieri e con la condanna per 10 persone, il processo per i rimborsi contestati all'allora amministrazione in carica. L'inchiesta e il conseguente procedimento penale riguardavano l'uso distorto dei fondi destinati ai gruppi politici presenti in consiglio regionale. La procura di Torino aveva chiesto per l'ex governatore una condanna a 2 anni e 4 mesi, così come i PM Avenatti Bassi e Gabetti avevano avanzato la richiesta di condanna a carico di tutti e 25 gli imputati. Dal procedimento durato più di 2 anni, con decine di udienze, erano emerse una serie di spese più o meno discutibili in capo ai consiglieri regionali per decine di migliaia di euro utilizzati attraverso il sistema dei rimborsi destinati ai gruppi politici. La pena più alta, quella inflitta a Michele Giovine, condanna a 3 anni e 10 mesi per il reato di peculato. L'inchiesta era stata aperta dopo un controllo della Guardia di Finanza su centinaia di scontrini, ricevute e fatture, da cui era spuntata la spesa per le mutande verdi in capo all'ex presidente, che oggi si dice soddisfatto della sentenza e ribadisce la sua fiducia nella giustizia. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E c'è da registrare sul fronte politico la reazione del leader leghista Matteo Salvini, che dice: quanta gente, a partire da Renzi, dovrebbe chiedere scusa a Cota e ai consiglieri leghisti che poi sono stati assolti. La politica ci porta a parlare anche del referendum. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ancora scontro dentro il PD sul referendum, questa volta il premier Matteo Renzi a scagliarsi contro Massimo D'Alema, usa il referendum per rientrare in partita, vota no convinto di poter rappresentare il futuro, e poi c'è un nuovo sondaggio XE che in cui si dice che sì sarebbero in recupero, la consultazione del 4 dicembre avrebbe il 50% degli italiani al voto e i sì e i no sarebbero pari al 38%, dati contestati da Renato Brunetta di Forza Italia, che cita un altro sondaggio, quello Piepoli, in cui il no è in vantaggio di 8 punti, ovvero al 54%, mentre i sì sono al 46%. Un sondaggio, quello Piepoli, pubblicato dalla Stampa, ma questo se si lascia il quesito così com'è. Se si dovesse spezzettare il quesito in 8 parti, 6 passerebbero, i sì arriverebbero al 47%. Perché? Perché la maggior parte degli italiani vuole l'abolizione del bicameralismo paritario, ma è contrario al Senato non elettivo. Insomma, è guerra dei sondaggi a 2 mesi dal voto. Il presidente del gruppo misto della Camera, Pino Pisicchio, invita comunque alla moderazione, mentre il dibattito, dice, continua ad essere con toni apocalittici. A te, Simone. E grazie dunque Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. La politica, o almeno la politica del governo, si concentra in queste ore anche sulla manovra e sulla flessibilità che richiediamo all'Europa. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Manovra economica sulla quale è tornato questa mattina il Presidente del Consiglio Renzi. Il Premier ha parlato di tasse, scongiurato l'aumento dell'IVA, adesso l'IRES al 24%, ha detto, quindi di quoziente familiare ci stiamo lavorando e avrà un segnale nella legge di stabilità. Ma il tema, ha spiegato Renzi, sarà affrontato con la revisione dell'IRPEF come previsto nel 2018. A Palazzo Chigi, come al Ministero dell'Economia, intanto si lavora per mettere nero su bianco le misure, soprattutto ora dopo l'apertura a nuovi margini di flessibilità annunciati dal responsabile europeo agli affari economici Moscovici. Flessibilità non solo sui conti, invocata dall'Italia per terremoto e migranti, ma anche sul futuro del sistema bancario, ancora incerto tra cessione delle 4 good bank, aumento di capitale di Montepaschi e smaltimento delle sofferenze. Moscovici parla di flessibilità precise, limitate e chiaramente spiegate. In questo momento sanzionare sarebbe per l'Europa un fallimento, spiega il commissario, e non farebbe che dare adito ai populismi. Molto critiche però, Simone, con Moscovici le opposizioni. Aiuta Renzi, è scorretto, dice Brunetta da Forza Italia. Dal Movimento 5 Stelle di Battista commenta: chi ci comanda tifa Renzi, banche d'affari, ambasciata americana, Marchionne e perfino Briatore. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta, che già ci accennava alla vicenda della vendita delle 4 banche ponte, le 4 cosiddette good bank, Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carife e Nuova Carichieti. Ebbene, la Commissione Europea ha autorizzato l'estensione del processo di vendita, di fatto sostanzialmente una proroga, un processo di vendita che mira a massimizzare il valore delle 4 banche minimizzando i costi per i contribuenti, scrive la Commissione. Siamo alle cronache dall'uragano Matthew. If there is an evacuation order in your community, you need to take it seriously. Se c'è un ordine di evacuazione, prendetelo seriamente. Lo ha detto il presidente americano Barack Obama rivolgendosi alla popolazione della Florida in attesa dell'uragano Matthew. A quanto pare lo hanno preso seriamente. Stazioni di servizio sono state prese d'assalto, batterie, radio, transistor, pane, alimenti in scatola sono esauriti nei supermercati. Pur declassato da categoria 4 a categoria 3, Matthew fa ancora paura. Dopo la Florida si abbatterà su Georgia e North Carolina. È andata peggio ad Haiti, dove Matthew ha colpito prima di perdere intensità. I morti per il passaggio dell'uragano sono più di 300. La metà delle persone colpite sono bambini, spiega il portavoce di UNICEF Andrea Iacomini. E 60.000 sono le persone sfollate, secondo la delegata della Croce Rossa Italiana ad Haiti, Maria Giovanna Costa. Il paese è interamente raso al suolo. Adesso avevamo le elezioni domenica, sono state rinviate per l'ennesima volta, per cui instabilità politica ormai endemica. Le poche già piantagioni che ci sono distrutte, problemi di frane. Quindi insomma sì, la situazione è molto molto pesante. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'Italia con le manifestazioni di studenti in corso in tutta Italia. E questo è uno degli audio che arrivano dalla manifestazione. Ci aggiorna in diretta Anna Marino per sapere che cosa sta succedendo nelle varie piazze del paese. Anna. Sì, dai palchi, dalle strade si sentono le grida, le urla, ma anche e soprattutto diciamo gli slogan degli studenti che sfilano dicendo no a tutto, anche al referendum e soprattutto contro la riforma della buona scuola. Ma come sentite, anche con richieste, con un ventaglio di proposte alternative. Stamattina appunto con lo sciopero nazionale, con i cortei di studenti in oltre 100 piazze italiane, è partito ufficialmente l'autunno caldo della scuola italiana e non sono mancati tafferugli a Milano con schiaffi tra anarchici e centri sociali, a Bologna per vernice su provveditorato e banche, con la polizia a Firenze dove alcuni tentavano di entrare in un liceo, a Roma per deviare verso Montecitorio. Però oltre ai no parla di cambiamenti concreti una delle rappresentanti delle associazioni di studenti che hanno indetto lo sciopero, Francesca Picci, coordinatrice nazionale Unione degli Studenti, soprattutto sull'alternanza scuola-lavoro. Sentiamo. L'alternanza scuola-lavoro ha dimostrato di essere inadeguata anche perché è stata fatta presso molte aziende intesa come vera e propria manodopera gratuita degli studenti, senza assistenza, senza tutele per le studentesse e gli studenti. Noi vogliamo un codice etico per le aziende che effettuano l'alternanza, perché questa deve essere fatta sotto il nome della formazione, anche pratica, però di qualità. Risponde ai cortei rassicurando il ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini: il governo si è occupato della scuola fin da subito e il dialogo con gli studenti è sempre aperto. E aggiunge: non ci sono obiettivi specifici, è una richiesta di attenzione. Ed è tutto, Simone. Grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Ancora con la cronaca italiana, la vicenda dello stupro avvenuto ai danni di una turista australiana nei giorni scorsi nel parco di Colle Oppio. Ieri, ricorderete, in effetto giorno abbiamo ospitato il comitato di quartiere di Colle Oppio per farci raccontare quali sono le loro richieste. Tra queste richieste c'era la chiusura notturna del parco che avverrà, lo ha annunciato l'assessore all'ambiente di Roma Paola Muraro, aggiungendo che chiederà lo sgombero degli accampamenti dei senza fissa dimora. Questa la notizia che arriva appunto per quanto riguarda la vicenda di Colle Oppio. Novità ci sono sul caso Cucchi. Sindrome da inanizione. Di questo sarebbe morto Stefano Cucchi, secondo i giudici del processo di appello bis. Una morte, spiegano, causata da un'insufficiente alimentazione e idratazione iniziata prima dell'arresto, alla quale devono aggiungersi le patologie da cui era affetto, tra cui l'epilessia, lo stress per i dolori delle lesioni lombosacrali e un quasi digiuno di protesta. Questo si legge nelle motivazioni della sentenza d'assoluzione con la quale nel luglio scorso i giudici della Corte d'Appello hanno fatto cadere ogni contestazione ai 5 medici del Pertini, il cui giudizio di assoluzione era stato annullato dalla Cassazione. Una colpa però ai medici, i giudici le attribuiscono, e cioè quella di non avere colposamente diagnosticato la sindrome da inanizione. Ma anche se l'avessero fatto, appare logicamente poco probabile, si legge testualmente, che Cucchi si sarebbe salvato. La reazione della sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, in mattinata, ospite su Rai 2. E l'indignazione, la nostra, è tanta. Noi siamo veramente, dopo 7 anni, stanchi. Io annuncio adesso ufficialmente che la mia famiglia farà un esposto al CSM. Io adesso voglio dei chiarimenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre per la cronaca italiana, dopo il caso di Napoli, un'altra aggressione di un minorenne, questa volta in Puglia, un ragazzo che è stato ucciso con un colpo di pistola. Ancora una lite tra minorenni. Dopo l'episodio di Napoli, ieri sera nel Foggiano, un 17enne è morto dopo essere stato colpito all'addome da un colpo di pistola. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era in compagnia di un coetaneo, nella piazza centrale di San Severo, quando per futili motivi sarebbe scoppiata una violenta lite con altri ragazzi. La discussione sarebbe degenerata e qualcuno ha sparato alcuni colpi di pistola. Un proiettile ha colpito il 17enne, che è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Anche un amico del ragazzo è rimasto ferito, ma sembrerebbe essere fuori pericolo di vita. A far fuoco sarebbe stato un coetaneo della vittima, che dopo il fatto si è dileguato. Ora si stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Andrea Siravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiude in Sardegna la missione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, accompagnata in questi giorni dal boicottaggio delle esercitazioni militari nei poligoni da parte dei pescatori. Vicenda che vi abbiamo raccontato anche questa qua in effetto giorno, che protestano contro i mancati indennizi. Così il presidente della Commissione Giampiero Scano sulla situazione di compromissione ambientale della cosiddetta penisola interdetta di Teulada. Quell'ambito territoriale noi ci aspettiamo che venga bonificato da subito. Con i tempi attuali abbiamo calcolato ci vorrebbero 512 anni e non è immaginabile che una comunità civile si rassegni a mezzo millennio di tempo per poter rimettere le cose a posto. Quindi bisogna trovare i soldi per fare le bonifiche e bisogna fare le bonifiche in tempi ragionevolmente brevi. Se la politica avesse fatto il proprio dovere non ci sarebbero stati gli inquinamenti e comunque una volta verificati sarebbero stati sanati con gli adeguati provvedimenti e le adeguate bonifiche. Sono 130.000 i bambini sotto i 5 anni vaccinati in un anno da Medici Senza Frontiere nella Repubblica Centrafricana. L'obiettivo è arrivare alla fine di quest'anno a vaccinarne 220.000. Si tratta della più grande campagna di vaccinazione mai realizzata in un paese colpito da un'alta mortalità infantile e sostenuta anche da una raccolta di fondi. Gli estremi li trovate sul sito di Medici Senza Frontiere. Un progetto sostenuto tra gli altri dall'attrice romana Cristiana Capotondi. L'ha intervistata Cristina Carpinelli. L'allarme della mortalità infantile per delle malattie che da noi sono curabili ormai da quasi un quarantennio, credo che sia un allarme al quale non si può restare indifferenti. Parliamo di malattie chiaramente come il tetano, come il morbillo, e chiaramente Medici Senza Frontiere in Africa sta cercando di ridurre questa mortalità. Questo mi ha fatto chiaramente accettare immediatamente il sostegno a questa campagna. La Capotondi sarà ospite proprio della nostra Cristina Carpinelli domenica alle 23 nella prima volta. Siamo al calcio ora con la nazionale. Giovanni Capuano, eccoci. Eccomi Simone, buongiorno. Sì, è un giorno dopo movimentato a casa Italia, dopo il pareggio contro la Spagna di ieri sera che lascia aperto il discorso qualificazione, ma che ha anche sollevato parecchi dubbi su gioco e approccio degli azzurri che sono stati a lungo dominati dagli spagnoli. A tenere banco questa mattina è l'esclusione di Graziano Pellè dalla prossima trasferta in Macedonia, un'esclusione decisa dal commissario tecnico Ventura e dalla federazione. Pellè, che ieri al momento della sostituzione si era rifiutato di stringere la mano a Ventura ed è stato punito per aver tenuto un comportamento irrispettoso, così si legge nel comunicato della Federcalcio. Pellè questa mattina si era scusato con un post sui social network dicendosi pronto a subire qualsiasi conseguenza e la conseguenza, come detto, è stata l'esclusione dalla nazionale e l'immediato ritorno in Cina dove gioca. La nazionale resta invece a Torino dove prepara il prossimo impegno domenica sera alle 20.45 in Macedonia. È obbligatorio vincere perché il pari di ieri mette in salita il nostro girone che, lo ricordiamo, fa passare certamente solo con il primo posto. Al posto di Pellè ci sarà Belotti, Ascopi, e Belotti che ieri ha fatto bene quando è entrato, ma non sono esclusi anche altri cambi e soprattutto dovrà cambiare l'atteggiamento in campo. Contro la Spagna la prima ora di partita è stata interamente regalata ai nostri avversari con un possesso palla imbarazzante, la squadra chiusa in difesa e capace di reagire solo dopo lo svantaggio e la papera di Buffon. Adesso a Ventura si chiede di cambiare passo, speriamo già da domenica sera. A te. Grazie, grazie Giovanni Capuano per questo aggiornamento, per questo punto. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizia il nostro giro per l'Italia. Iniziamo da Milano, ma in realtà per parlare di una vicenda che sta scatenando un mezzo putiferio su Facebook e sui social, la vicenda di una madre che ha deciso di postare il diario della figlia sul quale l'ha giustificata per non aver fatto i compiti perché ha detto passa troppe ore a scuola e nelle due ore successive dalle 17 alle 19.30 si deve dedicare al tempo libero e allo sport. La ospiteremo e parleremo con lei. E poi andremo da Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, che ha appena fatto rimuovere dalla facciata del municipio lo striscione Verità per Giulio Regeni, tra mille polemiche. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'assoluzione nel caso Scontrini per l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e dell'assoluzione parallela per il presidente del Piemonte Cota per la vicenda dei fondi dei gruppi. Abbiamo parlato del Nobel per la pace che va al presidente colombiano, abbiamo parlato dell'uragano Matthew, di un nuovo omicidio tra minorenni, questa volta avvenuto nel Foggiano, dei cortei di studenti in tutta Italia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e partiamo da Milano per una vicenda che in realtà si è diffusa più che altro sui social network, più che in città. È la vicenda di una madre che ha deciso di postare su Facebook la giustificazione che ha fatto per la figlia, che fa la quarta elementare, e che, diciamo così, una giustificazione per non aver fatto i compiti. Cosa recita questa pagina di diario? Gentili maestre, Maria Sole non ha potuto studiare storia perché dopo 8 ore di scuola, dalle 17 alle 19:30, ha dedicato il suo tempo libero restante in attività ricreative e sportive. Tutto questo, come potete immaginare, ha scatenato un discreto putiferio, molte condivisioni sui social. Anna Santoiemma, che è questa madre, è con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, come mai? Allora, la mia protesta è già nata un anno fa, quando durante un'assemblea di classe avevo manifestato alle insegnanti il mio disappunto sul carico dei compiti che davano ai bambini. Le insegnanti mi hanno risposto che sarebbe stato sempre peggio e che in quarta elementare il carico dei compiti sarebbe aumentato. Per cui già in quel momento, in quell'occasione, mi sono lamentata. Deve vedere la quinta elementare, glielo dice appunto. Uno che queste cose le sa. Comunque, mi scusi, Santo Iem, qua io leggo, perché la pagina del diario di sua figlia ormai è pubblico, dice storia, studiare sul quaderno e leggere nel sussidiario pagina 10. Alla fine non è che fosse questa roba pazzesca. Allora no, allora, durante la settimana ogni giorno hanno qualcosa da studiare. I bambini sono alle 4:30, quel giorno mia figlia l'ho presa da scuola, alle 5 siamo andati a fare la sua attività sportiva, siamo tornati a casa alle 19:30. Maria Sole è una bambina molto diligente, molto responsabile, fa anche i suoi compiti in modo molto veloce, sveglia. Solo che quel giorno mi ha detto: mamma, devo studiare, devo ripassare, non ce la faccio, sono stanca. E a quel punto io mi sono sentita di non far subire a mia figlia un'ingiustizia. Ma non è una cosa un po', Santo Iam, mi scusi, sì, perché mi faccio l'avvocato del diavolo, non è una cosa un po' da core de mamma per invece no, che un'idea di progetto educativo? Non è un progetto, no, è un modo per far capire a mia figlia che questo metodo di studio è sbagliato. Dopo 8 ore di scuola, perché i bambini sono costretti, dopo le attività sportive, a continuare a studiare? Non ha senso. Cosa gli rimane in mente a questi bambini? Però nelle 8 ore in quarta elementare non è che fanno solamente scuola vera e propria, cioè hanno anche altre attività, altre cose, no. C'è la pausa pranzo, ci sono le ricreazioni, confermo che sono in classe a studiare, a colorare, ad ascoltare un insegnante che spiega, che ripete. Sono 8 ore in cui sono chiusi in una scuola. Senta, ma come gli altri genitori della classe, come l'hanno presa questa cosa? Molti si lamentano, molti genitori si lamentano dei compiti. Il problema è che nessuno si espone, nessuno... Ma le hanno scritto in queste ore? Cioè ci sarà il gruppo WhatsApp della classe? Che le hanno scritto? Ma loro contestano naturalmente il metodo, come è stato sollevato il problema. Meglio che non lo postasse, meglio che non la postasse. No, ma io volevo sollevare il problema. Io volevo accendere una miccia perché sono stanca. Qualcun altro contesta, qualche ascoltatore ci scrive, no? Al 349-238-6666 dice: chi giustifica i propri figli li rovina e non li prepara ai problemi. No, per me non li insegna a non subire delle regole ingiuste. Questo è il messaggio che voglio dare a mia figlia. E questa è la sua valutazione, la sua posizione. Io la ringrazio. Grazie Anna Santoiemma per essere stata con noi. Vedo molti messaggi degli ascoltatori. Il dibattito evidentemente è aperto e magari ci torneremo nei prossimi giorni. Alcuni ascoltatori ci scrivono insomma che ha perfettamente ragione. Altri ascoltatori invece che sono nettamente contrari a questa posizione. Buongiorno al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi, allora, a tutti gli ascoltatori. Allora, riassumiamo la vicenda. Nei giorni scorsi, cioè, campeggiava fino ad oggi sul municipio di Trieste lo striscione Verità per Giulio Regeni, lo studente italiano, il dottorando italiano torturato ed ucciso in Egitto. Nelle ore scorse è arrivata una mozione urgente da parte di 4 consiglieri della maggioranza di centrodestra che la sostiene, nella quale si chiedeva la rimozione di questo striscione perché è stato là per troppo tempo, e si citava l'esempio di quanto poco era rimasto lo striscione per i Marò all'interno di questa mozione. Ebbene, lei stamattina ha deciso di far rimuovere questo striscione. Tra mille polemiche, tra l'altro uno dei giornali locali, Il Piccolo, addirittura ha fatto una prima pagina con la riproduzione dello striscione con scritto Verità per Giulio Regeni a tutta pagina. Perché l'ha voluto rimuovere, Di Piazza? Ma guardi, è da febbraio che è esposto questo striscione. Poi abbiamo fatto un film con la Film Commission, l'abbiamo rimosso, sono arrivati centinaia di mail dicendo perché l'avete rimosso. L'abbiamo rimosso perché la Film Commission mi aveva chiesto. Poi facciamo un'iniziativa Next, che è un'altra iniziativa enorme della città dove sono arrivati 30.000 studenti, e la Next ti chiede, metteteci fuori lo striscione di Next, lo rimuovo e di nuovo polemiche. Allora, premesso che la mia completa solidarietà alla famiglia per quello che è successo al figlio, per le torture che ha subito e tutto quanto, ma da febbraio, poi è diventato un fatto politico, cioè il PD cavalca questa cosa. Allora a questo punto cosa ho fatto? Voi cavalcate e io lo tolgo, così non abbiamo nulla da cavalcare. E poi alla fine le dirò, sono l'unico ente in città che ha messo fuori questa cosa in Piazza Unità d'Italia, che dovrebbe essere esposto sul palazzo del governo, se mi concedete, perché tanto è il governo che deve intervenire nel confronto. Cioè, però mi scusi Di Piazza, Di Piazza, però le chiedo una cosa, in realtà non è che l'ha iniziato ad esporre l'amministrazione precedente, o no? O ha iniziato lei? No, è da febbraio. È da febbraio, Cioè, non è esposto, mi scusi, volevo far capire ai telespettatori che non è esposto da una settimana, è da febbraio. Sì. Quindi, insomma. Allora il problema è questo, però. Ho capito che con l'intervento del PD, che anche se lo avessi tolto fra 3 anni sarebbe stato troppo presto. Allora a questo punto, di fronte al Palazzo del Governo abbiamo il Palazzo della Regione in Piazza Unità, e poi al centro c'è il Palazzo del Comune. In ambo i palazzi non c'è nulla. Quindi allora, lei dice, se lo pigli il palazzo al governo. No, ho detto, io dico solo una cosa, che in questo momento, con tutti i problemi che abbiamo nel paese, con tutti i problemi di occupazione per i giovani con città, se devo occuparmi di queste cose, questa mattina mi sono alzato, ho visto il giornale, ho detto bene, così lo tolgo, così ho finito, mi sono tolto il dente cariato e non ci sono più polemiche. Il dente cariato addirittura? Eh sì, perché il giornale l'ha messo come un problema politico, invece questo disgraziato è morto, torturato per altre motivazioni, ha avuto tutta la mia solidarietà e la solidarietà di tutto il paese, però adesso è intervenuta la politica e quando interviene la politica a me non va più bene, perché se è un fatto politico allora lo tolgo. L'ha chiamato i genitori di Regeni? Un colpo di telefono glielo fa? Ma io non ho nessun problema, sono nato a 1 chilometro da Fiumicello, dove è nato Regeni, si figuri se non posso chiamarli. Sono nato da Ieri o del Friuli, ho fatto il militare a Villa Vicentina, che è a 200 metri da Fiumicello, si figuri, insomma. La ringrazio, grazie Di Piazza, sindaco di Trieste, per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi proseguiamo il nostro giro per l'Italia e andremo alla vicenda, la ricorderete, un caso giudiziario che riguardava quell'indiano, che poi è risultato essere irregolare in Italia, accusato di aver tentato di rapire una bambina. Tutti si scagliarono contro la procura nel momento nel quale la procura decise di lasciarlo libero. Ebbene, ieri il GIP ha confermato che l'impostazione della procura era corretta e che quest'uomo non aveva mai ma ha mai tentato di rapire la bambina. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: caso Scontrini e consulenze alla sua Onlus, è stato assolto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e l'ex presidente del Piemonte Cota è stato assolto invece per i fondi dei gruppi. Nonostante il fallimento del referendum, il Nobel per la pace va al presidente colombiano, premiati gli sforzi per l'accordo con le FARC. Si abbatterà sulla Florida nel pomeriggio l'uragano Matthew, ma ha perso forza, mette comunque paura, sono oltre 300 le vittime ad Haiti. Litigio in piazza, ucciso con un colpo di pistola un ragazzo di 17 anni nel Foggiano e un altro ragazzo è stato ferito alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. 37 contagiati, 2 vittime. Il nostro giro per l'Italia ci porta a Parma, dove c'è a quanto pare una vera e propria epidemia di legionella. Siamo in linea con Franca Sciarrone, che è direttore del servizio igiene pubblica della ASL di Parma. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, qual è il quadro? Mi sembra di aver capito che non siete ancora riusciti a capire... Non, evidentemente non per colpe vostre, non vi sto accusando di questo, deve essere anche difficile, quale sia la causa di tutto questo. Sì, l'indagine è molto complessa perché di tutti i soggetti ammalati non sono stati esposti alle tipiche fonti di rischio, ma dalle indagini effettuate è emerso che tutti sono domiciliati o comunque hanno frequentato assiduamente una determinata zona della città. Questa concentrazione... Che è il quartiere di Montebello, ho capito bene. Che è il quartiere, detto la zona Montebello. Come si trasmette la legionella, la legionellosi per meglio dire? Prego. La legionella si trasmette esclusivamente per via respiratoria, inalando gli aerosol contenenti piccolissime goccioline di acqua che contengono il batterio. Oh, chiariamo però, Sciarrone, quando lei dice aerosol non intende la macchina che noi usiamo quando abbiamo problemi respiratori, no, si intende la diffusione nell'aria di particelle, di particelle umide. Esatto. Okay. Senta, 37 persone al momento contagiate, quindi? Sì, 37 casi confermati, anche se stamattina sembra che un caso non faccia parte del cluster epidemico, ma sia isolato. Sia isolato e quindi al di fuori di quel quartiere del quale ci parlava? Esatto, esatto. Che è un po' più preoccupante a questo punto, Sciarrone, no. Mi scusi, o no? No, nel senso che il caso isolato non risiede neppure a Parma, okay. Quindi è assolutamente al di fuori. Senta, che anche per tranquillizzare o non tranquillizzare gli ascoltatori di Parma che stanno ascoltando appunto questa parte della trasmissione, che rischi ci sono e come si manifesta la legionellosi? La legionellosi nelle forme più gravi si manifesta come una polmonite con sintomi di brividi, febbre elevata, dolori toracici e il quadro tosse e il quadro radiologico tipico di una polmonite. Colpisce soprattutto soggetti che sono considerati a rischio o per l'età avanzata o perché portatori di patologie croniche associate, perché forti fumatori, perché è chiaro che il fumo compromette l'apparato respiratorio o comunque si trovano in condizioni di deficit immunitario. Nei nostri casi l'età media è di 66 anni e sono stati colpiti in maniera pressoché uguale maschi e femmine, 19 maschi e 18 femmine. Allora, la ringrazio. Intanto abbiamo dato questo aggiornamento. Grazie a Franca Sciarrone per essere stata con noi. Ci torneremo e vedremo come evolverà la vicenda, direttore del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Parma. In chiusura di questa puntata, di questa settimana, c'è una sottolineatura che volevamo fare su una vicenda di cronaca della quale ci siamo occupati prima dell'estate. La ricorderete, è la vicenda di Ram Lubai, 43 anni, cittadino indiano e clandestino sul nostro territorio, che era stato accusato di aver tentato di rapire una bambina, e appunto siamo nel ragusano. Era successo che la procura non aveva ritenuto opportuno che questa persona fosse tenuta in carcere e l'aveva liberata immediatamente. Grandissime polemiche su come si era comportata la procura, dopodiché una serie di testimonianze avevano portato a ritenere che forse la versione di quest'uomo, di quest'indiano, era quella corretta, e infine è arrivata ieri di fatto l'assoluzione da parte del GIP. Ovviamente l'uomo è stato rimandato, è stato espulso, è rimandato in India, ma tant'è, le cose stanno così, non ha mai tentato di rapire una bambina. Abbiamo in linea il suo avvocato, Biagio Marco Giudice. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei, buongiorno. Ho ricostruito bene? Ha ricostruito fedelmente la vicenda. Fedelmente la vicenda. In realtà, come dire, c'era stata, non lo so, una sorta, una specie di gioco, perché questa era una persona che vendeva degli oggetti in giro per la spiaggia, la bambina lo conosceva bene, e che cosa è successo? No, sul fatto che la bambina lo conoscesse, questo non è emerso. Era un ragazzo che faceva dei tatuaggi all'ennè, che era conosciuto in spiaggia. In realtà si è avvicinato a questa bambina, l'ha solo sollevata senza allontanarsi, senza scappare, subito riconsegnandola al papà quando l'ha visto, e da questo è nata una montatura, è nata il tentato sequestro di persona che in realtà non si è mai realizzato e di cui il mio cliente si è sempre dichiarato assolutamente innocente, non aveva assolutamente intenzione di sapere nessuno. Quindi la procura aveva ragione. Senta una cosa, lei è riuscito a contattarlo, perché adesso è in India, No, purtroppo io non ho la più pallida idea di dove si trovi in India. Ora, io ho fatto anche delle richieste per cercare di sapere dove è in India, anche per comunicargli questo provvedimento, però ad oggi non ho avuto alcuna risposta. Non so se riuscirò effettivamente a contattarlo. La ringrazio, grazie. L'avvocato Biagio Marco Giudice, legale di Ram Lubai, una sottolineatura breve, ma alla quale tenevamo anche per il risalto che abbiamo dato alla vicenda tutti quanti, tutti i media italiani. Ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.